Salva Danaio di Deborah Rosciani. Quando ero bambina esistevano prezzi pieni e i saldi di mia madre. A prezzo pieno compravi cose vistose e sgargianti che duravano 3 settimane. Ai saldi di mia madre cose marroni che duravano per sempre. Ma guardando le vetrine dei negozi, io vedevo un altro mondo. Un mondo da favola, pieno di cose meravigliose. Un mondo dove le ragazze grandi potevano avere quello che volevano. Non avevano neanche bisogno di soldi. Avevano delle carte magiche. Ne volevo una anch'io. Mai avrei immaginato che un giorno ne avrei avute 12. Rebecca Bloomwood. Eccoci qua, buongiorno da Deborah Rosciani. Vi abbiamo proposto il solito estratto di I Love Shopping. Lo strausiamo questo film e i suoi contributi più divertenti per le nostre trasmissioni dedicate soprattutto all'argomento di oggi, che tra un attimo vi vado a presentare. La protagonista si chiama Rebecca Bloomwood, Becky per gli appassionati delle sue avventure. Fa la giornalista finanziaria, ha 12 carte di credito come avete sentito, ma non ha nulla a che fare con me, voglio subito precisarlo, questa abitudine. Una, basta e avanza. Di cosa vogliamo parlare? Becky lo ha annunciato all'inizio, di saldi, dei saldi di fine stagione. Come Stra ha annunciato, quest'anno soffrono anche questi ed era una sofferenza talmente annunciata che il mondo del commercio si era già mobilitato all'inizio di giugno con iniziative straordinarie in alcune città come a Milano, che ha dato il via molto presto a vendite promozionali in molti negozi. Ma la stagione ufficiale dei saldi parte sempre ad inizio luglio. E cosa sta succedendo, a parte i sogni e i ricordi della protagonista di I Love Shopping? Succede che si sono notate poche file ai negozi per acquistare articoli in saldo e quindi quella che sta andando avanti è la stagione del risparmio. Secondo le associazioni dei consumatori, quest'anno solo una famiglia su 3 sta approfittando degli sconti, con una spesa media di circa 127 euro per un giro d'affari che si aggirerà poco al di sopra del miliardo di euro. Più rosee le aspettative di Confcommercio, che invece aveva previsto una spesa di circa 250 euro a famiglia per un totale di 3,5 miliardi. Una boccata d'ossigeno, sperano così i commercianti, appunto per un comparto fra i più colpiti dall'andamento economico sfavorevole. Allora, come facciamo sempre a Salva Danaio, per i saldi invernali a gennaio e a luglio per quelli estivi, oggi vi raccontiamo, o almeno cerchiamo di raccontarvi, per quello che possiamo sapere almeno fino a questo momento, come stanno andando queste liquidazioni nelle città italiane, fra occasioni per acquistare i prodotti desiderati e opportunità anche per sfidare i venti della crisi. Con noi questa mattina ospiti che ci hanno già fatto compagnia anche nelle altre volte in cui nella nostra trasmissione abbiamo parlato di questo tema: Massimo Vivoli, vicepresidente di Confesercenti, anche presidente di Confesercenti Toscana, se non ricordo male. Vivoli, buongiorno. Buongiorno a lei. E bentornato. Grazie. Grazie anche a Massimo Torti, segretario generale di Federmoda Confcommercio, buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori. E naturalmente abbiamo anche l'associazione dei consumatori, Marco Gagliardi, legale del Movimento Consumatori. Buongiorno avvocato e benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, come sempre chiedo l'aiuto degli ascoltatori, che possono intervenire in diretta su questo argomento chiamandoci all'800240024. Chiaramente la domanda che vi faccio è sempre quella: come avete approfittato quest'anno della stagione dei saldi? Se era vostra abitudine approfittare in questo periodo del ribasso dei prezzi magari per rinfrescare il guardaroba, o se quest'anno pure avete rinunciato perché magari quel piccolo risparmio accumulato se ne è dovuto andare a coprire altre esigenze familiari. Ci potete anche scrivere al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Potete andare anche a commentare il tema di oggi sul nostro profilo Facebook salvadanaio-radio24. Abbiamo 1912 ascoltatori che hanno messo il like sul nostro profilo. Aiutatemi perché voglio arrivare a 2000 entro le ferie, per cui mi aspetto tante adesioni, anche il passaparola da parte vostra. Cosa ci hanno già scritto gli ascoltatori che hanno commentato il tema di oggi? Pierluigi scrive: un augurio a tutti i commercianti, ma qui dalle nostre parti, non vedo code fuori dai negozi, magari agli outlet andrà meglio. Pierluigi magari ci scriva di dov'è. Alessandro gli risponde: ecco, forse giusto gli outlet con questa crisi, non so in quanti abbiano voglia di comprare a prezzi di boutique. Un altro ascoltatore, Largen: personalmente non ho mai comprato niente nei periodi di saldi, non so perché, forse mi stressa. In questi giorni a Roma però si continuano a vedere i negozi vuoti e le bancarelle piene di gente, zona Prati. E infine Carlo, che ci scrive molto spesso: non c'è più spazio, dice lui, per le cose superflue. Oggi le cose basi sono, a mio avviso, tre: mangiare, le bollette, le medicine, poi se avanza qualcosa, qualche soldo si mette anche da parte. Carlo, però, adesso, a parte tutti i commenti che possiamo fare sui saldi, qualche volta magari le famiglie approfittano dei saldi perché hanno dei figli, i figli crescano, hanno bisogno anche di adeguare l'abbigliamento. Non è detto che uno approfitti dei saldi solo perché si vuole comprare, come nel mio caso, non lo so, la borsa all'ultima moda o il capo all'ultima moda, magari un po' scontato. Ci sono anche esigenze di base che si possono soddisfare attraverso la stagione dei saldi, per cui bisogna guardarla anche in questo modo, credo, in modo un po' più concreto per le famiglie. Volevo cominciare la mia chiacchierata con i miei ospiti interpellando subito Massimo Torti, segretario generale di Federmoda Confcommercio, perché so che Confcommercio ha messo in piedi un'iniziativa di monitoraggio costante delle vendite fra i propri associati. Avete distribuito dei questionari a cui i commercianti che aderiscono alla vostra organizzazione devono rispondere. Che scontrino medio stanno battendo Torti, i suoi colleghi? In questo momento stiamo raccogliendo i dati, quindi diciamo che man mano che noi anche adesso in questo momento in cui parliamo stanno arrivando delle risposte. Il questionario ha fornito delle indicazioni su qual è stato il peso della flessione dei saldi. È in linea quanto avevamo anche stimato. Noi avevamo stimato un 9% inizialmente, adesso dei primi rilevamenti si attesta sui 9,95%, quindi diciamo che purtroppo la flessione c'è, è una flessione che avevamo stimato, è una flessione che non poteva non esserci, perché noi sappiamo che i consumi sono trainati da due motori: uno è il sentiment, cioè il clima di fiducia degli italiani, e mai come in questo periodo abbiamo un sentiment negativo, quindi gli italiani sono sfiduciati. Un 66% attraverso una nostra indagine che abbiamo commissionato ad Astra Ricerche è la stima degli italiani che hanno sfiducia da qui a breve. L'altro motore è il potere di acquisto, il reddito disponibile. Noi proprio in questi giorni c'è stato l'Istat che ha confermato la tendenza a un meno 2% rispetto al primo trimestre del 2011, del primo trimestre 2012. Ecco che siamo in una fase in cui non potevamo pensare, nonostante le nostre speranze, che anche i saldi potessero creare uno sviluppo. Non parliamo di perdite così secche del 20-25%, però le stiamo rilevando anche in alcune città. E qui abbiamo ad esempio Roma, Napoli sono quelle che ci hanno comunicato un dato in doppia cifra sicuramente importante, 15-20% in meno di flessione, mentre altre città come ad esempio Milano, anche il nord Italia, comunque un pochettino più avvantaggiato. Ecco, diciamo che abbiamo delle cifre che vanno dal 5-7% Milano, certo. Ma logicamente scontrino medio, sì. E concludo, siamo sugli 86 euro in questo momento, però logico è che a seconda delle aziende, della dimensione dell'azienda, e sappiamo anche che i saldi estivi hanno una tendenza a vendere di più su bermuda, camicette, costume che già non costano moltissimo, e quindi magari diciamo che abbiamo rilevato questo per ora. Molte vendite su quel genere di prodotti. Stavo ragionando sulla cifra che ci ha dato all'inizio sul calo percentuale delle vendite registrato fino a questo momento, almeno secondo le vostre rilevazioni. Mi chiedo se sia un calo, chiaramente, che sarà su base annuale, farete un confronto rispetto a quello che è successo lo scorso anno, che è stato contaminato, condizionato anche dal fatto che, come dicevo prima, noi abbiamo fatto anche una puntata ad inizio giugno su questo tema. Molte città sono partite con non saldi, perché non si può usare quel termine per quel tipo di iniziativa commerciale che c'è stata a giugno, ma proprio per il fatto che sono già partite molte promozioni proprio per già fronteggiare la crisi ad inizio di giugno. Torti, certo. Allora, però su questo. Quindi molti ne hanno già approfittato, dico, ecco. Facciamo subito chiarezza, però. A giugno, ad esempio, lei ha citato prima Milano, sì, ma tutta la Lombardia, c'è stata questa possibilità che venir meno a quel vincolo, quel divieto di effettuare promozioni prima dei saldi. Questo divieto, tra l'altro, non c'era, quindi è un vincolo che non c'è mai stato in questi ultimi tempi, neanche in Emilia-Romagna, in Friuli Venezia Giulia, nella provincia autonoma di Trento, sì, quindi sì, non è una cosa, non è una novità, bene. Ecco. Detto questo, le promozioni sono una cosa e invece i saldi sono un'altra, ecco. Va specificato che le promozioni sono su uno o più prodotti, però di una stessa gamma merceologica, quindi io posso fare una promozione vendendo, non so, con un 3x2, facendo un 10 euro di sconto su una spesa minima di 100 euro, oppure rilanciando il negozio come promozione il 20% su un determinato prodotto in modo da attirare su altri prodotti. Io compro una camicia col 20% di sconto e magari compro i pantaloni e la cintura a prezzo pieno. Ecco che noi, questa, diciamo che adottata dalla Lombardia, è stata una risposta a quella tendenza della primavera, inizio estate, che non è stata così, da un punto di vista dei consumi, appetibile. Quindi stare fermi voleva dire comunque osservare, certo, che i consumi non si rilanciavano proprio per quei due motori di cui prima le ho accennato. Quindi, insomma, lei dice non sono due situazioni comparabili. Non sono comparabili, no. Però qualche famiglia magari ne ha approfittato in quel momento e non li fa adesso. Ecco, qualcuno ne ha approfittato, ma i saldi, anche da un punto di vista di autosoddisfazione, di creare, di cercare proprio quella profondità del prodotto, dell'assortimento di un negozio, tagli e colori, mai come adesso sono stati così importanti, ecco, diciamo anche questo. E sicuramente però dobbiamo tener conto anche che i commercianti hanno un margine da dover tenere sempre sotto controllo, quindi anticipare, ecco, l'ideale sarebbe posticipare a fine stagione, veramente, come i saldi si dicono. Guardi, sa quanti suoi colleghi che ci scrivono messaggi stanno commentando nello stesso modo la questione, che visto che anche il governo ha dovuto prendere iniziative straordinarie per fronteggiare la crisi, anche la vostra categoria sta appunto prendendole proprio per naturalmente venire incontro alle famiglie. Poi quello che si potrebbe fare, c'è chi continua ad auspicare una stagione di liberalizzazione dei saldi continua, no, invece chi invece per noi, no, per, guardi, voi non è così, no, lo so. No, tutt'altro, anzi, perché l'evento del saldo andrebbe innanzitutto a stravolgere quello che è il valore del saldo in sé, nel senso che è una vendita di fine stagione e non possiamo ridurre i margini, perché altrimenti vorrebbe dire chiudere i negozi, i negozi di vicinato, io sto parlando di quello. Poi lei ha ben introdotto attraverso le domande la questione outlet. Guardi, mi fermo perché c'è anche un altro messaggio di un altro ascoltatore, sì, piuttosto articolato, sì, che ci racconta cosa gli è successo in Veneto. Lo riserviamo per la seconda parte della trasmissione, il tema outlet. Chiedo anche a Massimo Vivoli un minutino di pazienza, perché anche lui lo ascolto dettagliatamente nella seconda parte del programma, però un'associazione dei consumatori ci vuole in questo momento per sentire anche un'altra campana sulle modalità con cui i saldi si svolgono, se i consumatori sono soddisfatti, non sono soddisfatti sicuramente di quello che hanno in portafogli in questo momento, non sono soddisfatti del fatto che molte famiglie ci sono state perdite del posto di lavoro, quindi i saldi non li possono guardare neanche dipinti in questo momento. Detto questo, avvocato Gagliardi, il sentiment che invece passa attraverso i monitoraggi delle organizzazioni dei consumatori qual è sui saldi? Il sentiment è che non è soltanto la stagione dei saldi questa, ma forse proprio siamo in un contesto di Italia in saldo, cioè è iniziata una svendita che parte dalle pompe di benzina a un frequente uso del social shopping, dove si acquista a prezzi scontatissimi, non abbigliamento, o comunque acquisti su internet sempre crescenti, quindi anche online si può comprare a prezzi minori, e appunto la crescita degli outlet di cui si è già parlato. Quindi il sentimento è fortemente negativo. Questo però, questo momento, le vendite di fine stagione dovrebbero costituire un'opportunità per i negozi, i piccoli negozi, dove il rapporto umano dovrebbe essere la componente più importante. Noi stiamo vedendo che comunque vecchi problemi di scarsa attenzione nei confronti del consumatore nel post vendita soprattutto continuano a verificarsi. Così come anche l'abitudine, questo io non è che lo dico per mettere in difficoltà gli ospiti che rappresentano il commercio, ma ce lo stanno scrivendo in tanti, di tirar fuori tutto quello che è possibile dal magazzino, che va bene, non è una cosa da contestare, però diciamo qualche volta non è un ambito molto visibile all'interno del negozio, quindi ancora queste abitudini da parte di molti consumatori, da parte di molti commercianti continuano. Vuole concludere Gagliardi, che poi devo andare in pausa? Sì, poi se vogliamo tornarci nella seconda parte, sì, la normativa volentieri. È precisa, specifica, ci sono degli obblighi di trasparenza per la pubblicazione dei prezzi e gli obblighi nel post vendita che sono ben precisi, per cui i consumatori dovranno stare attenti a una sorta di decalogo e poi segnalare eventualmente alle autorità competenti le violazioni. Mm-hmm. E allora vi leggo anche quello che ci scrive un ascoltatore. Domenica, lo scrive Alessandro, ho fatto shopping in un famoso outlet del Veneto, ho speso meno del 25% su articoli di abbigliamento di un certo livello rispetto al costo esposto nei negozi normali, mette lui tra virgolette, in centro a Treviso. Un Apollo a 21 euro invece che a quasi 100 euro. Massimo Vivoli di Confesercenti, le sono venuti i brividi a sentire pronunciare la parola outlet? Ma i brividi sicuramente, noi abbiamo denunciato già da tanto tempo una regolamentazione diversa, una legge diversa all'interno degli outlet. Alcune regioni le stanno facendo, altre non lo stanno facendo. L'andamento sicuramente delle vendite nel settore del commercio risentono di quello che è la crisi che il paese sta attraversando, le famiglie stanno attraversando, la rivoluzione sociale della vecchia classe media che non c'è più. È una situazione che sicuramente incide anche in questo periodo particolare, pur essendo un periodo nel settore del commercio molto ma molto favorevole ai consumatori, anche perché si sono aperti i saldi quest'anno con percentuali di sconto molto più alte rispetto all'anno passato, ecco. Sicché l'invito, noi abbiamo dei dati anche noi, quelli che registrano l'andamento nella prima settimana, sono partiti rispetto all'anno precedente con un pochino più tranquilli, ecco. Si avverte anche qui a Marchia del Leopardo, sicuramente anche in Toscana, province dove c'è una tenuta rispetto all'anno passato, c'è un calo del 5-6% rispetto all'anno precedente, però ecco, aspettiamo con fiducia anche perché i prodotti che sono all'interno delle attività commerciali, in special modo nel settore abbigliamento, nel settore calzature, sono tra l'altro molto ma molto interessanti, nel senso che sono prodotti sicuramente, come si dice, dell'invenduto stagionale, però c'è un grande assortimento, nel senso che le vendite, nonostante l'utilizzo massiccio che è stato fatto quest'anno anche su diversi prodotti, sulle vendite promozionali, anche questo le famiglie ne hanno giustamente approfittato perché sì. Anche i commercianti si sono fatti carico di una situazione generale, perché le famiglie hanno meno disponibilità economica, sono magari più oberate da quello che sono le tariffe, che sono i mutui, quelle che sono, e la crisi che è sentita anche nel settore del commercio. Nei confronti degli outlet però bisogna stare molto attenti, perché i prodotti che vengono venduti negli outlet non possono essere considerati, pur essendo anche le stesse marche, a quelli che sono i prodotti, diciamo, di qualità che sono distribuiti, ecco, nei negozi però, di vicinato. Certo, però io non posso mettere in discussione quello che ci racconta questo ascoltatore. Allora mi chiedo, il negozio che in centro a Treviso vende questa Polo a 100 euro ed è la stessa venduta nell'outlet a 21 euro, mi chiedo quanto è comunque un problema di quanto ci guadagna il negoziante che la mette in vendita a 100 euro, di quanto ci perde quello che la mette in vendita a 21 nell'outlet? Guardi, di solito i negozi dell'outlet sono gestiti direttamente dalle marche di produzione, nella stragrande maggioranza dei casi, sicché praticamente chi produce commercializza anche. Cioè, i negozi. Però oggi, un margine di 80 euro, Vivoli, è tanto. Io capisco che in centro a Treviso si debba dubbio, pagare l'affitto di quel negozio, magari il dipendente, la luce. È un fatto quello eccezionale, no? È un fatto eccezionale anche perché i ricarichi medi sicuramente sono molto, ma molto inferiori, anche perché se lei valuta bene quelli che sono i dati della cessazione delle chiusure dei negozi delle grandi, nelle città più importanti o meno, anche perché nella stragrande maggioranza dei casi, io per la conoscenza che noi abbiamo, e abbiamo conoscenza tra l'altro di quello che sono la qualità dei prodotti venduti negli outlet, sono capi passati o capi difettati per definizione proprio quelli venduti all'interno degli outlet. Questa tra l'altro è la legge che regolamenta gli outlet, non può essere la stessa merce. Io però non voglio mettere in dubbio l'ascoltatore tanto se l'ha fatto, evidentemente gli sarà successo, che qualche volta quando affrontiamo queste questioni i Vivoli abbiamo sempre l'impressione, sulla base delle testimonianze che ci arrivano dagli ascoltatori, che ognuno ci rappresenta un'eccezione, e invece poi la sensazione che sia un po' la regola generale. Però, e questo deve essere chiaro, che nel nostro paese negli ultimi anni i negozi di abbinamento di calzature stanno facendo purtroppo stanno scomparendo, come è successo nel settore alimentare per quanto riguarda il commercio tradizionale, nel settore del commercio dell'alimentare. Sono nati grandi centri commerciali che stanno spazzando via un po' tutto. Sì, anche perché poi vede, in Europa siamo comunque tra i paesi più cari nel settore alimentare. Mentre invece nel settore di abbinamento, comparati con gli altri paesi europei, siamo quelli che abbiamo i prezzi più bassi. Abbiamo anche magari le firme un po' di maggior qualità. Vivoli, la interrompo per un attimo, poi ritorno da lei molto volentieri. Volevo sentire un altro paio di ascoltatori, ridare anche la parola all'avvocato del Movimento Consumatori. Sergio da Rimini, buongiorno. Allora, fatto degli acquistoni? Buongiorno. Io dico che ci vorrebbe un po' più di serietà da parte dei commercianti. Le spiego subito. A parte la crisi che c'è, a parte quello che ha detto sto signore, che è sempre un'eccezione, ma non è l'eccezione. Vabbè, i commercianti hanno pure delle famiglie di cui farsi carico, non è che sono delle figure così astratte che stanno lì a farci dei dispetti, perché bisogna anche rispettarli. Certo, per carità, però vanno rispettati anche i clienti, perché io le posso dire che per il mio lavoro certi negozi li visito, li vedo nelle vetrine due volte alla settimana. Avevo notato alcune cose che mi interessavano. Ho aspettato, perché giustamente cominciano i saldi, a parte che i saldi dovrebbero partire fra un mese, non il 7 di luglio ma il 7 di agosto. Quindi lei ha una visione insomma in linea con quella dei commercianti. Ecco, e in più dico che quando sono entrati in questi negozi, stranamente tutto quello che avevo visto era stato tutto venduto. C'era tutta merce di 3, 4, anche 5. Gli ho detto, ma scusi, l'ho vista l'altro giorno che era qui, sì, l'abbiamo venduta. Ho detto va bene, grazie, arrivederci. Questa casualità, questa circostanza pure si verifica sempre, me lo raccontano anche molte amiche, magari tengono d'occhio un capo che vorrebbero acquistare per qualche settimana, poi vanno magari proprio il primo giorno dei saldi nello stesso negozio, il capo è stato improvvisamente già venduto. C'è anche da dire che qualche negozio per i clienti più fidati inizia magari una promozione e avvisa il cliente particolarmente fedele magari il giorno prima: guarda, se vieni il pomeriggio prima ti faccio comprare quel pezzo, quell'articolo a prezzo già scontato, anche se il saldo ufficiale parte in tal data. Per cui ecco, ci sono anche i commercianti si barcamenano come può, giustamente anche per tenere un tasso di fidelizzazione della clientela molto alto. Sento un altro ascoltatore, poi vado a Marco Gagliardi. Ibrahim da Torino, buongiorno. Buongiorno, senta, quello che volevo dire è che ormai i saldi hanno perso credibilità, perché ormai si stanno studiando delle truffe, delle cose così per far aumentare il prezzo, poi rimetterlo in saldi, perché io mi è capitato di mettere in punto dei capi per quando aspetto i saldi per andare a prenderli. Cosa vedo? Vedo che sono saldati però nello stesso prezzo di prima, hanno aumentato il prezzo. Infatti anche questa è un'altra cosa che succede. Allora, più che truffe, quindi, chiamiamole pratiche commerciali molto discutibili, Ibrahim. Sì, ma dappertutto. Io ormai ho perso credibilità. Per esempio, io faccio camionista, vado all'estero, vado in Francia. Quando vado a fare i saldi lì, proprio si toccano, si vedono, perché se vado a vedere un pantalone che costava 100 euro, io lo trovo a 70, Però si tocca. Invece qua, il giorno lo ritrova a 100 euro e il prezzo prima era 130. Si cambia proprio la vetrina e tutti i prezzi cambiano. Poi abbiamo visto anche delle testimonianze di Storicia della Giustizia che hanno proprio fatto vedere con dei documentari. Ma sì, guardi, addirittura un ascoltatore qualche tempo fa ci aveva raccontato che proprio volutamente, così per evitare di cadere vittima di questa pratica, aveva fotografato il prezzo dell'articolo che voleva, il prezzo pieno, qualche giorno prima, e poi si era presentato al negozio con la foto ed effettivamente aveva riscontrato un comportamento di questo tipo da parte del commerciante. Avvocato Gagliardi, ma insomma dobbiamo andare con l'avvocato in negozio anche per gestirci serenamente la stagione dei saldi? Dobbiamo chiamarla e fare shopping insieme a lei? Ma no, grazie. Ci sono comunque l'associazione dei consumatori e la polizia municipale che si occupano di queste questioni. Rispondendo all'ascoltatore di Torino, anch'io torinese, citerei il decalogo che è pubblicato sul sito del Comune di Torino, in particolare tre punti che devono essere rispettati e possono essere verificati direttamente dai consumatori. Nelle vendite di fine stagione deve essere esposto obbligatoriamente il prezzo normale di vendita iniziale, lo sconto o il ribasso espresso in percentuale, il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso, questo deve essere chiaro. Secondo punto, le merci delle vendite di fine stagione devono essere fisicamente separate in modo chiaro e inequivoco da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni originarie. E poi uno su cui mi soffermerei un attimo, nel corso di vendite di fine stagione il rivenditore è comunque tenuto a sostituire prodotti difettosi o a rimborsarne il prezzo pagato. Abbiamo ricevuto due segnalazioni ieri di consumatori che hanno acquistato dei beni, che si sono dei vestiti, un paio di scarpe, un polo, che si sono rivelati difettosi, la polo dopo un lavaggio e il paio di scarpe dopo che è stato messo la prima volta. I negozianti si sono rifiutati di sostituirlo. Hanno contestato il tipo di difetto riscontrato o c'è stato proprio un no secco senza valutare la situazione? Allora, in un caso è stato contestato il difetto debitandolo al consumatore che aveva lavato correttamente e lì ci può anche stare. Quindi dopo due lavaggi il bene è evidentemente difettoso, a meno che sia stato fatto in modo... Beh, se l'aveva già lavato due volte l'aveva acquistato anche da un bel po', comunque ci sono magari 30 giorni di tempo. No, era un acquisto recentissimo. Invece nel secondo caso è stato offerto un buono invece della restituzione del prezzo, cosa che non è prevista dal codice del consumo. Per cui io tornavo a quello che dicevo prima, questo è il momento dei piccoli esercenti, dei piccoli negozi che sono quelli più in crisi, bisogna tornare ad avere un rapporto umano perché altrimenti poi ovviamente il consumatore non torna più, oltre magari a segnalare alla polizia municipale la violazione del decalogo, aprire un reclamo tramite il movimento consumatori. Potete già immaginarlo che con i commenti che abbiamo fatto nell'ultima parte della trasmissione abbiamo già sollevato il polverone fra i molti commercianti che ci stanno ascoltando e chi naturalmente dice non potete trattare tutti nello stesso modo, non tutti si comportano nello stesso modo, ma ci mancherebbe altro. Devo dire che però le testimonianze di questo tipo sono tante, le dobbiamo anche ascoltare e soprattutto dobbiamo anche dare corretti suggerimenti agli ascoltatori per potersi non difendere, perché sono tutti assolutamente in grado di difendersi, magari proprio anche non facendo direttamente l'acquisto, ma magari trattando un po' con il commerciante dicendogli guarda insomma questo bene l'avevo visto ad un certo prezzo perché adesso ci hai provato e l'hai messo in vendita per dimostrarmi lo sconto ad un prezzo più alto. Comunque Massimo Torti, ritorno da lei, so che sono situazioni delle quali abbiamo parlato tante volte, che conoscete molto bene e tra qualche vostro associato o sicuramente qualcuno che si comporta così c'è, ma quando lo scoprite che fate? Guardi, io le dico subito una cosa perché francamente ci sono un po' rimasto male. Io dico che noi rappresentiamo 141.212 imprese di settore, quindi commercio al dettaglio, abbigliamento, tessile, accessori, pelletterie, articoli sportivi. Faccio solamente un piccolo inciso, caso, Torti, no, nel senso che è chiaro che nel momento in cui faccio una trasmissione mi scrivono, mi chiedono chiarimenti polemici e quelli un po' più, ecco, un po' più attenti. Elimino e metto da parte tutte le polemiche, voglio solo far precisare che non possiamo pensare due casi ieri segnalati che possano costituire la regola. Fatta questa premessa, io dico anche che per un commerciante il cliente è il valore aggiunto vero e proprio del suo lavoro, così come è il proprio commesso, quindi cioè, maggiore c'è è il rapporto di fidelizzazione umano che si riesce a inserire, lì sono d'accordo con anche se ho una visione forse leggermente diversa dal rappresentante di Federconsumatori Movimento Consumatori, mi sembra comunque che l'obiettivo principale soprattutto in un momento di crisi sia quello proprio di trattare bene il proprio cliente, a maggior ragione con dei saldi come in questo periodo in cui c'è una profondità di assortimento tale da poter scegliere taglie, colori eccetera eccetera, non vedo, io parlo sinceramente da responsabile di categoria, però non vedo l'esigenza per un commerciante di andare a tra virgolette falsificare qualche il rapporto umano che invece deve connotare i rapporti consueti tra vendita e acquisto. L'altra parte dico, noi proprio per questo come Federazione Moda Italia con le principali associazioni dei consumatori, in quasi tutte le regioni abbiamo dei saldi chiari, saldi trasparenti, saldi tranquilli, abbiamo firmato dei protocolli d'intesa sottoposti ai nostri associati apposta per dare una trasparenza di quello che può essere la vendita. Sono identificabili per esempio i negozi che aderiscono a questi protocolli, certo, ad esempio certo, con il cartello certo, in vetrina, saldi tranquilli? Ecco, e io le dico anche, ad esempio a Milano ci sono i saldi chiari, tanto per sì, dire, è vero. E sono identificabili con una locandina, una vetrofania che sono all'interno o esposti in vetrina, a seconda, o all'interno con una locandina, identificabili da, appunto da un sorriso, appunto con saldi chiari, arancione, giallo, insomma, ed è, le dico perché comunque i numeri di associati che aderiscono a questa iniziativa, perché ovviamente è volontaria, no? È sempre maggiore e in costante aumento di anno in anno, e dai saldi invernali ai saldi estivi pure, quindi ripeto, i nostri uffici sono sempre aperti per distribuire, e continuiamo anche a stampare queste locandine vetrofanie. Dall'altra parte mi sento di aggiungere anche un'altra cosa sugli outlet, ma noi sappiamo bene cosa andiamo a comprare negli outlet? Sappiamo se un prodotto è fallato dell'anno scorso, è fatto da una produzione ad hoc, chi l'ha fatto e perché? Perché non abbiamo le stesse regole in negozio tradizionale con quelli presenti all'interno degli outlet? Prima il mio collega di Confesercenti diceva appunto in alcune regioni si sta pensando a programmare una legge seria, però è quanto mai opportuna, perché il consumatore, e io sono d'accordo e credo anche che i consumatori e le associazioni siano di questo avviso, devono sapere quello che comprano, se è lo stesso prodotto che è venduto nel negozio o meno. Perché anche qui c'è da aprire, e allora chiediamo, e l'abbiamo chiesto come Federazione Moda Italia Confcommercio, l'abbiamo chiesto su tutti i tavoli regionali, non ultimo anche in Lombardia, ma so in Veneto, in Toscana c'è già la legge, ad esempio, che chiarifichi bene che cosa sono questi prodotti. Perché e se ad esempio lei ha detto bene prima delle promozioni, ma io ho ricevuto dei messaggi da parte di operatori che mi mandavano nell'outlet di mi mandavano un messaggio che dal 15 giugno in Piemonte il prezzo dell'outlet era ribassato del 50%. Certo, lei diceva, ma di fronte a questo noi come possiamo affrontarla? Ecco, ma non è solo come possiamo affrontarla, perché vuol dire che loro applicano non applicano una legge che invece il singolo commerciante stesso, prima si parlava di Torino, deve applicare, e che pregiudica sicuramente nel rapporto tra di lealtà tra consumatore e torti, sono tutte riflessioni assolutamente condivisibili, per le cose le rispettiamo profondamente, ecco. Possa come in questo momento ci sono nel nostro cuore soprattutto le esigenze della famiglia, che magari rispetto, ritornando al famoso esempio che abbiamo fatto all'inizio, rispetto tra una t-shirt che ne costa 100 in negozio e 21 in outlet, sicuramente ben poco, pur magari sposando completamente le sue riflessioni, chiaramente non si fa tanti problemi su come questa maglietta viene prodotta e se finisce in outlet in maniera diversa rispetto a come finisce in negozio, se i canali distributivi sono diversi così come i canali produttivi originari. C'è una maglietta, cioè, con 100 euro ne compra 5 magari per due figli e ci va avanti due stagioni, per cui il tema purtroppo in questo momento è quello ed è molto più importante rispetto alla regolamentazione delle vendite, almeno nella percezione delle famiglie, che si possono praticare appunto negli outlet o nelle vendite che si fanno nei negozi tradizionali. Sento Franco dalla provincia di Trento, che era proprio il commerciante arrabbiato, che mi diceva e scriveva: non potete fare di tutta l'erba un fascio. Franco, buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno al ai nostri ospiti, sì. Ai vostri ospiti e soprattutto al signora Confcommercio, che ha fatto un quadro perfetto di quello visto. Che è la problematica del negoziante. Federazione Moda Italia, che continua a chiamare Federmoda, non è più neanche il termine esatto, per cui me ne scuso anche con torti, ma sa come sono dura di cervello. Franco, no, ci dica. Ma, il problema oggi è che il pubblico è molto informato. Il pubblico è molto informato sui prezzi. E un negoziante non può assolutamente fare il furbo, come ho sentito dire. Chiaramente, se parliamo però di prodotti fallati o di prodotti di altre collezioni, di stagioni precedenti, fino a 4-5 stagioni prima, sicuramente ci può essere questa differenza di prezzo dai 21 ai 100 euro. Questo sicuramente lo trova in qualsiasi negozio serio. I listini, le aziende hanno dei listini consigliati, parliamo di aziende di un certo livello e di una certa serietà, hanno dei listini consigliati, e se lei gira i negozi in tutta Italia che vendono lo stesso prodotto non troverà grosse discrepanze, perché quello è il polso del negoziante. Il tesoro più grande del negoziante è il cliente. Senza un cliente un negozio chiude. Certo. Perciò io devo trattare bene la mia clientela, non posso permettermi, fra parentesi, di fregarlo. Franco, lei è un commerciante nell'abbigliamento? Esatto. Ecco, in questo periodo che tipo di esposizione ha adottato per il suo negozio? Magari aveva sicuramente degli articoli che erano fermi lì da 2-3 anni, li rimette fuori e li tratta, li mette... Sono tutti scontati al 50% a fine in maniera di ogni ben stagione. Visibile, Noi a fine di ogni stagione, purtroppo essendo in una zona turistica, abbiamo la necessità di cambiare radicalmente l'immagine del negozio e di conseguenza tutta la merce della stagione prima viene scontata al 50%, ma non cambiamo i prezzi, rimane il prezzo di cartellino. Il cartellino stampato dall'azienda a Pinco è stampato e lo sconto si fa sul 50% di quel cartellino. Noi abbiamo adesso gli arrivi dell'invernale e praticamente stiamo mettendo già fuori l'inverno prossimo, perciò tutta l'altra merce viene scontata. Chiaramente la primavera ha un certo tipo di sconto perché è ancora caldo e ancora vendibile, mentre invece l'invernale scorso è tutto al 50%. Perciò questo che voglio dire, la serietà del negozio si nota anche dalla fidelizzazione del cliente che ha. Nel senso, noi abbiamo una storia di 100 anni e non è data dal fatto che siamo in una posizione centrale o altro, è dato dal fatto che siamo un'azienda seria. E intanto guardi, ci sono molti ascoltatori solidali con lei, c'è Carlo che scrive: i commercianti onesti con crisi e studi di settore sono destinati a chiudere, speriamo di no Carlo, rimarranno outlet e furbi. E intanto altri ascoltatori che ci segnalano, oltre alle iniziative straordinarie di vendite promozionali partite in anticipo rispetto ai saldi, sono operazioni diverse, ci sono anche molte città che hanno adottato anche le notti bianche o rosa o di tutt'altro colore per anche aiutare il commercio, magari così a rendere più divertenti le città in certe ore notturne, ma soprattutto anche a tenere aperti i negozi per favorire un po' di commercio in altri orari. Allora, noi ci dobbiamo fermare perché abbiamo terminato. Ringrazio molto Massimo Vivo di Confesercenti, Massimo Torti, Federazione Moda Italia Confcommercio, Marco Gagliardi, legale del Movimento Consumatori. Salvadanaio termina qui. Riesco oggi anche a salutare Laura Fagini in assistenza al programma, Paolo Corleoni in assistenza invece tecnica. Noi con Salvadanaio torniamo domani. Che cosa vi posso dire in chiusura? Buoni saldi a tutti.